Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Lui, che si era meritato il soprannome di palpeggiatore, ha detto che è una congiura agli agenti di polizia che lo hanno portato in carcere. Dall'altra parte ci sono 7 giovani vittime dei suoi abusi sessuali, alcune donne che hanno preferito licenziarsi. Il datore di lavoro mi ha telefonato, mi ha detto: se io vengo a letto con te una volta non basta, deve ripetersi questa cosa più di una volta. Una dirigente del consolato norvegese e una dipendente comunale impiegata nell'ufficio relazioni internazionali avrebbero denunciato 2 distinti episodi che le hanno viste protagoniste di pesanti avance da parte dell'assessore 44enne. La dirigente norvegese dell'ufficio commercio e turismo ha riportato il racconto al suo superiore, l'ambasciatore Einar Bull, immediata la richiesta di chiarimenti da parte di Massari. Certo, quando si tratta di definire i rapporti fra maschi e femmine, nel nostro paese esiste una profonda, radicale e incolmabile ipocrisia. Lo dico perché mi sono fatto, rispondendone e pagandone di persona molte volte, portavoce nell'ultimo anno e mezzo, dell'aspetto ridicolo di una mobilitazione generale che c'è stata nel nostro paese, che ha avuto una grandissima sponda mediatica, che ha visto donne, soprattutto donne, ma anche uomini, scendere in piazza per una vibrata e anche in termini astratti lecita protesta sul vilipendio costante che subiva il corpo delle donne per l'immagine che ne dava la televisione. Ancora se ne parla. La donna si oltraggia per come viene presentata in televisione, come se in televisione ci fossero degli aguzzini con dei ferri roventi e degli arpioni acuminati che prendono queste povere ragazze dagli educandati delle suore e le costringono a scollacciarsi e a dimenarsi a favore di telecamere. Mentre questo accadeva, mentre questo infervorava e riempiva gran parte del dibattito sul corpo delle donne, accadeva un fenomeno tristissimo e crudele, di cui non parlerò questa mattina perché merita un'attenzione particolare, quello del femminicidio, del numero esagerato di omicidi di donne che avvengono soprattutto insieme alla famiglia, che vengono spacciati per delitti passionali, quando poco a che fare la passione con l'istinto omicida, ma ancora di più radicato e nascosto, difficile da uscire all'onore delle cronache e di meritarsi campagne, una sorta di costante oltraggio alle donne sui posti di lavoro. Vi parlerò oggi di una ricerca che ha fatto l'Istat, da cui viene fuori che un numero elevatissimo di donne ancora subisce ricatto sessuale sul posto di lavoro. Faccio questa premessa perché non voglio oggi fare confusione. Non cominciate a farmi telefonate del genere: se una viene con le calze torreggenti, tacchi a spillo, è una provocazione aperta, perché già mi sono arrivati sul profilo Facebook di Radio 24 Melog messaggi del genere, oppure ho una mia collega che è andata a letto con il suo capo, ha ottenuto una promozione, non mi sembrava molto arrabbiata. Certo non è arrabbiata, l'ha fatto in maniera consenziente, ha usato uno strumento che può facilmente usare una donna sul posto di lavoro, che è la propria capacità seduttiva, ha fatto il suo calcolo e l'ha usato, non ci trova assolutamente nulla di riprovevole, fa parte delle realtà, delle carte che una persona si può giocare. In questo sono molto laico. Io parlo di un'altra cosa, parlo del viscido, ipocrita ricatto fatto soprattutto da uomini che hanno famiglia, che sono rispettabili, che sono brave persone, che sulle quali tutti metterebbero la mano sul fuoco: ma no, non è possibile, ma ragazza mia, cosa avrai mai fatto? Ma sei tu che l'hai provocato? Ma sei tu che hai avuto un atteggiamento nei suoi confronti? Lo dico perché raccolgo, negli anni ho raccolto testimonianze di amiche, di conoscenti, di colleghe, mi hanno detto: non lo sai quella persona lì? Ti dice chiaramente: o me la dai o qui ti faccio la vita impossibile. Io dico: ma no, è impossibile, lo conosco, ma è uno stimato collega, perché di posto di lavoro parlo naturalmente del lavoro che faccio io, che conosco meglio, ma accadrà penso anche nei più tristi uffici del terziario avanzato, nei luoghi di burocrazia, non soltanto nelle redazioni dei giornali, dove è abbastanza facile che il giornalista potente si rivolga alla collega meno attrezzata e gli faccia capire che lui può fare molto per la sua carriera, ma lì magari probabilmente esiste una sorta di reciproco patto di illusione: io mi illudo che sono ancora in grado di conquistare un cuore femminile, tu mi illudi e che sei affascinata dalla mia arte, dal mio mestiere, dal mio essere un uomo potente, e quindi ci mettiamo d'accordo. No, ma io parlo di una cosa ancora più esplicita, della porta chiusa, della mano addosso, dello sguardo penetrante, della bava alla bocca e della domanda precisa: Se tu vieni con me, avrai la vita facile, avrai una carriera, avrai l'avanzamento, lo scatto, i 4 soldi in più. Se tu con me non ci vieni, beh, qui considerati morta. 800240024. Spero di essere stato chiaro nella mia premessa. Pronto? Ciao. Ciao, dimmi tutto. Allora, spiegami il tuo progetto quale sarebbe. Allora, mi affissiamo un appuntamento, prenotiamo un hotel e facciamo di tutto. Perché però tu del contratto non mi hai ancora detto nulla. Allora, il contratto sarà un contratto a tempo determinato. Io dopo 4 mesi ti trasformo contratto a tempo indeterminato. Okay. L'offerta è chiara, sesso in cambio di lavoro e solo dopo 4 mesi un contratto a tempo indeterminato. E per convincerla ad accettare la sua proposta, le confida che la concorrenza è davvero spietata. Ma sai che c'è della gente che mi scrive le mail e spero che lei non abbia ancora scelto, io verrei, uscirei anche con lei, mi fa delle proposte che tu non hai idea. Io voglio te. Evidentemente non sono stato sufficientemente chiaro nella mia premessa, o evidentemente tocco un punto che è così tenacemente consolidato ormai nella mentalità maschile del nostro paese che è inutile parlare. Il primo SMS dell'intelligentone di turno dice: non rompiamoci le palle, Gianluca, la donna non fa niente che non le faccia piacere, su, sono tutte troie. Ecco, io siccome questa l'ho letta tale quale perché mi è arrivata immediatamente, è il primo segno di una mentalità che si abbassa saracinesca di fronte a un problema. Posso anche darti per scontato che molte donne, caro ascoltatore che mi scrivi questo SMS pensando di essere anonimo, in cui invece vedo molto, Luca da Genova, ecco, vedo molto chiaramente il tuo numero di telefono, potrei anche richiamarti a risponderne se io volessi, ma preferisco non farlo. Dico, diamo anche per scontato che esista una sottile capacità diffusa di seduzione del genere femminile che viene usata nel posto di lavoro, ma esisteranno, vuoi darmi atto che esistono dei casi di schifosissimo ricatto nei confronti di persone che tutt'altra cosa hanno per la testa, hanno in mente la loro famiglia, i loro problemi, le loro bollette da pagare, le loro situazioni familiari e personali, e devono subirsi la bava addosso di uomini che non paghi di avere già uno strumento forte di potere, non paghi di avere già una posizione di privilegio, vogliono anche usarla per la soddisfazione di una loro compulsione che dovrebbero andare altrimenti a sfogare. Ma andiamo ai numeri. Dottoressa Linda Laura Sabadini, buongiorno. È caduta, allora, mentre la stiamo aspettando, andiamo avanti e sentiamo qualche altra testimonianza di quello di cui stiamo parlando questa mattina. Approfittava della sua posizione, il 65enne, dal 2007 direttore generale dell'hotel Marriott di Fiumicino, per palpeggiare, molestare e toccare anche con grande insistenza le sue dipendenti, l'episodio più grave del giugno 2009 verso una delle sue vittime preferite. Invitata nelle circostanze, le presso il proprio ufficio, entrata all'interno, le è saltata addosso, ha cercato di spogliarla, ha palpeggiato dappertutto. Questa, dopo vari tentativi, finalmente è riuscita a divincolarsi, è scappata via piangendo. E da quel momento in cui 800240024, vediamo se riusciamo a cogliere il problema, mi arriva un altro messaggio. Facciamo dell'ipocrisia, è un altro discorso, mi piacerebbe conoscere chi, aspetta, mi è saltato l'SMS, un secondo solo, mi piacerebbe conoscere chi, diciamo, usando il proprio corpo, il proprio fascino, non ha fatto carriera nel posto del lavoro, ma è un altro tema, un altro discorso, un altro tipo di reciproco patto, di contratto che viene fatto. Questo è un atto di sopraffazione, di violenza, in cui non tutti e due si è d'accordo, che quella cosa deve essere fatta anche ai fini di un vantaggio. Gennaro, buongiorno. Buongiorno, io racconto la mia esperienza di maschio e di avvocato e conosco storie di colleghi che hanno fatto carriere luminosissime semplicemente perché hanno fatto figli con donne 20 anni più anziane di loro, molto molto ricche ed inserite, o che sono riuscite ad entrare nelle grazie del titolare del studio perché si sono fidanzate con figli inguardabili dei loro domini. Però non erano costrette, è una scelta calcolata, se vuole cinica, ma è una scelta. Vabbè, ma il ricatto si può fare in tante maniere, voglio dire, io non vedo questa differenza. Ma scusi, lei proprio che avvocato non vede la fattispecie, diciamo, delittuosa in una persona che chiude la porta alle sue spalle e dice a una persona che casca dalle nuvole: o con me hai un rapporto sessuale o ti fai mettere le mani addosso o non vai avanti. Ma credo che questa sia una cosa molto infrequente, cioè alla fine magari per gli uomini la cosa è meno violenta, è meno marcata, ma alla fine è assolutamente la stessa cosa, c'è chi vende e c'è chi compra, gonna o pantaloni non cambia. Vabbè, questo è il suo punto di vista, non sono perfettamente d'accordo, evidentemente non ha avuto l'occasione, come ho avuto io, di avere confidenze personali, sia di uomini e di donne, sia di persone che considerano un loro diritto la molestia sul luogo di lavoro, soprattutto di una dipendente, una subordinata, sia di donne che sono state costrette a cambiare posto di lavoro. Andiamo avanti. Dottoressa Linda Laura Sabaddini, l'abbiamo recuperata. Buongiorno. Eccoci, sì, buongiorno a voi. Ha sentito il tono generale che mi aspettavo telefonate, ricordo è il direttrice del Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat. Ieri l'altro è uscita un'agenzia di stampa sulla sua ricerca, è stata presentata a un convegno a Roma in cui mi sembra ci fosse presente anche il ministro Fornero, poi non ho vista molta traccia sui giornali, evidentemente è un argomento che si presta a molte ambiguità, si preferisce glissare. Non ha avuto anche lei questa impressione? Non so se si preferisce glissare, sai, il fatto che non si pubblicizzi adeguatamente può essere anche legato a fasi particolari, a volte ci sono altri temi che hanno più presa di questi. Certo, il dato è critico, noi abbiamo iniziato a rilevarlo ogni 5 anni dalla fine degli anni 90, proprio per capire anche come evolveva questo fenomeno, se c'erano segnali di diminuzione. E la cosa interessante che è emersa è che intanto 1.200.000 donne, anche di più, hanno proprio denunciato questa cosa, sia di molestie sessuali, fisiche sul lavoro, sia soprattutto di ricatti sessuali all'assunzione, per la carriera, per progressioni di carriera e anche in generale proprio come richiesta di disponibilità sessuale, soprattutto ovviamente. Non so se è necessario, ma mi può aiutare anche lei, dottoressa, a fare il distinguo che ho fatto all'inizio? Io ho una posizione molto laica, in questo non sono un moralista. Se una donna decide di usare il suo fascino, trova uomini che accettano questa sorta di contrattazione, diciamo al di fuori delle gabbie sindacali di sesso in cambio di carriera, sono fatti loro. Io sto parlando di un atto di violenza e di sopraffazione, o mi sbaglio? Esatto, qui noi stiamo parlando della stessa cosa, nel senso che parliamo di molestia e parliamo di ricatto nel momento in cui non c'è ovviamente accettazione da parte della vittima, cioè si configura come un sopruso nei confronti della donna che non è consenziente, quindi è questo il discorso. La cosa interessante che è uscita... Vediamo qualche numero così si rendono conto dell'entità del problema. Allora, sono circa 1.200.000 le donne che nel corso della loro vita hanno subito questa situazione. Di queste, più di 842.000 hanno subito ricatti sessuali veri e propri, come dicevo, o per la carriera, per il proseguo di carriera, oppure proprio per l'accesso al lavoro o per la permanenza al lavoro, perché uno poteva essere magari precario in una certa fase, no? E quindi essere un pochino più vulnerabile nei confronti del datore di lavoro. La cosa interessante che è successa è che in una prima fase, dalla fine degli anni 90 fino al 2002, quando per la seconda volta l'avevamo rilevato, il fenomeno in particolare per l'assunzione era un po' diminuito. E questa cosa ce la siamo anche spiegata con i cambiamenti che c'erano stati anche sul fronte dello sviluppo dell'occupazione femminile. Erano quelli gli anni in cui in qualche modo c'era più disponibilità, se vogliamo, no? Di occupazione per le donne, c'era meno possibilità, tra virgolette, di ricattare, no? Per un posto di lavoro, visto che comunque la crescita dell'occupazione femminile era forte. Nella seconda fase, in cui invece il rallentamento è stato maggiore, la diminuzione non è più continuata, non sono neanche aumentati, sembrerebbe, questi casi, però sono rimasti sostanzialmente stabili. Quindi è chiaro che nei momenti, nelle fasi più difficili, in cui è più difficile trovare un lavoro, è più difficile avere progressioni di carriera, eccetera, è anche più facile che si insinui il ricatto. Quindi nel momento in cui stiamo proclamando una crisi generale nel mondo del lavoro, questo è un fenomeno emergente. Mi interessa però sì. capire la tipologia di donne, come avete fatto un'indagine, penso, sì. su un campione abbastanza esteso di donne. Molto perché, grande, sì. Quindi... L'indagine era su un campione di circa 30.000-35.000 donne intanto. La cosa che va sottolineata è che, come facciamo noi, sono campioni ovviamente rappresentativi sul territorio, che tengono conto sia di chi vive in comuni piccoli sia di chi vive in comuni grandi. Sì, siete quindi... l'Istat, non siete pizza e fichi. Esatto, quindi... cioè, noi a questo ovviamente facciamo molta attenzione, altrimenti rischiamo di dare poi delle stime che possano essere un po' distorte. Ci tengo a dire che ovviamente sono stime, no? Qui non si tratta di un censimento, e sono stime che ci dicono che una grandissima parte, come per la violenza più in generale sulle donne, anche all'interno della famiglia, una piccolissima parte ha visto le donne denunciare queste cose, e soprattutto quello che emerge, c'è una grandissima solitudine. La stragrande maggioranza delle donne non ha parlato con nessuno sul luogo di lavoro. No, mi interessa poi vedere che in realtà il campione più molestato sono donne di un'età dai 35 ai 45 anni, donne soprattutto che vivono sole, emancipate si direbbe, cioè la donna liberata da un rapporto familiare, da una famiglia dietro, cioè la donna che più sembra appetibile è quella che più si è emancipata e più ha acquistato la propria indipendenza. Allora, non è necessariamente così, nel senso che da un punto di vista, per esempio, l'estrazione sociale è abbastanza variegata, abbastanza varia. È chiaro che per la parte di progressione in carriera, quelle che sono più colpite sono quelle, diciamo, di status sociale un po' più elevato, che possono farla la carriera, perché se uno ovviamente sta a un livello basso ha meno chance, no, di fare carriera, e quindi meno chance anche per un datore di lavoro di usarla. In quel caso usa il ricatto più per minacciargli di fargli perdere il posto di lavoro piuttosto che per la carriera. Quindi dipende, diciamo, questo profilo dipende dalle tipologie di ricatti. Se è un ricatto per l'assunzione sono un pochino più giovani, più trentenni, perché ormai le donne entrano tardi poi sul mercato del lavoro. Se è un ricatto per progressione di carriera, ovviamente si arriva a 40-45. Fermiamoci un attimo, sentiamo qualche ascoltatore. Isabella, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Chiamo perché volevo semplicemente raccontare la storia di mia cognata. Mia cognata è una ragazza molto bella che ha 37 anni e quest'estate è stata letteralmente aggredita dal suo datore di lavoro, che è un notaio molto famoso a Milano. E lei, diciamo che lui ha approfittato di lei nel momento in cui tutte le colleghe erano in vacanza, erano soli in ufficio, lei non aveva mai avuto nessun tipo di avvisaglia da questo punto di vista, e lui gli è letteralmente stato addosso. Stiamo parlando di un professionista, una persona arrivata di una certa età, con famiglia eccetera. Lei ha denunciato immediatamente ai carabinieri e ha scoperto che non era la prima, nessuno sapeva nulla di questa situazione. Sì, di solito c'è sempre un personaggio che nel sottobosco dell'ambiente lavoro tutti lo sanno, le persone più scafate stanno alla larga, le donne più scafate, quelle che ahimè devono averci rapporti personali poi incappano nell'improvvisa esplosione del Mr. Hyde che si cela sotto questo rispetto, che è sempre un rispettabile professionista, una persona di una certa età, una persona a volte anche molto devoto, con figli, che tutti direbbero ma no, non sono calunnie. Continuano ad arrivarmi messaggi: Nicoletti fa il femminista perché non va nei cortili stile anni 70 a urlare, non sa dove c'è qualcuno che vende o c'è qualcuno che compra, sveglia Gianluca. Mi dispiace vedere questa ottusità nei maschi, io non sono mai stato femminista, mai andato nei cortei anni 70, sempre irriso e preso in giro gli estremismi delle donne, ma in questo caso mi sembra che avere una posizione molto maschile è quella di fare un distinguo fra se stessi e questi altri rappresentanti apparenti del mondo maschile. Mauro. Sì, buongiorno, salve. Io ho ascoltato con attenzione quello che Nicoletti, tu hai intelligentemente, come solitamente hai dimostrato, messo in argomento quest'oggi. E devo dire onestamente che va guardato con attenzione anche la posizione garantista verso le persone che si trovano oggetto magari di ricatti alla rovescia. Cioè, giustissimo, anche questo è un problema che esiste, non è che ho il parola. Ecco, io vorrei invertire un attimo la posizione, cioè vorrei vedere, non voglio difendere assolutamente le persone che utilizzano una propria, come spiegare, un proprio potere per ricattare, che io questo lo condanno in maniera assoluta. Però è chiaro che va guardato anche la posizione di queste donne di oggi, che sono stressate, che sono depresse, che hanno manie compulsive maniacali. Allora io vorrei che magari tante donne che vengono a fare, che vanno a fare le denunce, facessero anche un test per vedere se c'è sindrome bipolare. Perché io le posso assicurare che in molti casi, e anche io ho avuto esperienza di questo, ci sono delle realtà che non sono vere, cioè queste donne che sono depresse vedono qualcosa che non è vero. Io mi sono trovato una volta al bar che stavo sorseggiando un caffè, a un certo punto è passata una persona, una signora che mi guardava, e io l'ho riguardata, l'ho salutata per educazione, questa si è messa a urlare davanti al bar: lei mi sta guardando, come mai lei mi ha guardato? Sì, ma non voglio mica dire che non esistono questo. Esiste anche il rischio di essere incastrati da una persona che ti vuole mettere con le spalle al muro. Buona norma è, se si è un capo potente, non ricevere mai da solo persone che potrebbero presentare questo rischio. Esiste anche questo lato, non dico, ma questo non ci deve impedire di parlare però dell'aspetto che vogliamo toccare questa mattina. Esiste ancora la possibilità che un uomo faccia dei ricatti sessuali a una donna per permetterle o di fare carriera o di mantenersi il posto di lavoro o di avere un posto di lavoro. Al di là di quello che ho detto in precedenza e come apertura ripeterò fino a che avrò fiato, al di là della lecita possibilità di rispondere alla domanda con un'offerta generosa, spontanea, mirata, furbesca, ma assolutamente accettabile da un punto di vista generale, non certo etico. 800240024, questa mattina parliamo di molestie, ricatti sul luogo di lavoro. Ne parliamo con la dottoressa Linda Laura Sabadini, che è direttrice del Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, che da anni segue questo fenomeno. E proprio l'altro ieri hanno presentato una nuova ricerca che dà dei dati in crescita, dei dati che ancora danno l'idea che esista questa idea della possibilità di poter spaziare a 360 gradi una zona intermedia, limacciosa, al di fuori delle regole, in cui un uomo può chiedere a una donna una prestazione sessuale in cambio di un favore sul lavoro. Rifaccio la premessa che ho fatto all'inizio, anche perché ho fatto indignare Fabrizio Intonti. Mi ha detto: ma sai quante volte mi è capitato a me di vedermi passare avanti zoccolone perché stanno soltanto col capo, col direttore? Ma io ancora di più potrei dirvi della mia esperienza personale e radicale. Mi rendo conto che esiste questa possibilità, anzi è molto presente, molto evidente, evidentissima in certi luoghi di lavoro, ma qua parliamo di un'altra cosa, parliamo di persone che sono vittime. Dottoressa Sabadini, vediamo di rimpolpare ancora un po' l'aspetto dei dati e l'aspetto della fattispecie che stiamo trattando, per evitare proprio ogni equivoco. Allora, intanto quello che va sottolineato è anche come è andata a finire, cioè noi abbiamo visto che questo numero importante di donne che hanno sperimentato molestie e ricatti non lo denunciano, perché il caso che era stato portato prima del notaio è comunque il caso di una donna che se l'è sentita di denunciare, perché è difficile per una donna denunciare qualsiasi tipo di violenza, perché comunque è quello che voleva dire l'ascoltatrice, poi non gli ho fatto esatto. Anche una volta denunciato è molto poi difficile da provare il reato, è difficile approvare, ti devi comunque sottoporre a giustificazioni tu stesso, perché rischi tu stesso di diventare in qualche modo imputata, no? Di qualcuno dirà sempre: te la sei cercata, che colpa tua. Esatto, e quindi le donne lo fanno, però nello stesso tempo c'è anche un problema a parlare, perché quando si crea queste situazioni si crea anche un clima di intimidazione in qualche modo, che fa sì che la paura ti porta anche a non parlarne con nessuno, a isolarti e a rinchiuderti. Questa purtroppo è una dinamica che è pesante, che avviene, cose avviene anche su altri tipi di violenza. La strada che prendono le donne qual è? Nel 57 90% dei casi ci hanno detto che hanno deciso di cambiare lavoro. Si allontanano ora, dal problema. Si allontanano, quindi decidono di cambiare ambiente, lavoro, eccetera, per ricostruirsi un percorso diverso. Ora è chiaro che questo si può fare e si può mettere in pratica, magari anche bene, in una fase di crescita, no? In una fase in cui c'è la crescita occupazione femminile, come c'è stata dalla seconda metà degli anni 90 fino al 2008. In fase e di allora recessione è molto difficile. Che succede nei periodi di crisi? Come, quanto, allora, quelle donne che prima reagivano dicendo, sai che ti dico, io cambio lavoro, cerco altre opportunità, perché devono trovarsi poi nella condizione di dover cambiare lavoro e lo troveranno il lavoro in un momento così difficile come quello che sta passando il nostro paese? È evidente che queste sono le classiche scelte individuali a cui le donne non dovrebbero essere costrette, cioè in qualche modo bisognerebbe mettere in moto dei meccanismi che facciano sì che queste situazioni non avvengano più e siano, ci sia assoluta prevenzione e contrasto nei confronti di queste situazioni. E quale potrebbe essere una soluzione? Perché sinceramente al di là della mobilitazione e della, dell'impegno nel parlarne, onestamente non ne vedo molti, perché lo strumento tipicamente repressivo, che appunto è fare la denuncia, poi molte volte, in molti casi, ma uno non riesce nemmeno ad avere l'appoggio dei sindacati in questa cosa, perché si vanno a turbare equilibri, perché poi alla fine sono le stesse donne in che diventano... Si dovrebbero prevedere la costruzione di questi comitati di garanzia, per fare un esempio, no? Che nei luoghi di lavoro si dovrebbero far carico proprio anche di garantire il benessere organizzativo in senso lato e quindi anche di essere un po' il punto di riferimento per quelle persone, per quelle donne che si trovano in situazioni così critiche. Cioè dei meccanismi comunque bisogna trovarli, alcuni ne esistono e vanno messi in atto, altri bisognerebbe cercare anche di estenderli un po' di più e di perseguire un po' di più poi diciamo le persone che queste cose ne mettono in atto, perché voglio dire, se quella ragazza che è andata a denunciare il suo datore di lavoro che era notaio ha poi scoperto che questo in realtà era recidivo rispetto a questa cosa, possibile che non si riesca a mettere in atto nulla perché questo meccanismo venga interrotto? Cioè a volte forse non si persegue fino in fondo quello che si dovrebbe perseguire. Sa, molte volte esiste, poi la lascio perché so che lei ha un impegno, dottoressa, esiste negli ambienti di lavoro anche più qualificati, anche quelli pubblici in cui c'è una maggiore visibilità anche dal punto di vista delle persone che compiono questi atti, una sorta di leggenda interna alle aziende. Tutti sanno che quel dire, io ho lavorato tanti anni in una grossa azienda che produceva cultura e quindi so benissimo di cosa si tratta. Tutti sappiano che quel grosso personaggio, quell'importante conduttore, quel grande direttore, comunque era una persona che se entrava una donna sola nel suo ufficio rischiava molto. E c'è una sorta di alone leggendario. Chi ci andava determinata a seguire quella strada perché ne trovava la convenienza sapeva bene cosa andava a trovare. Chi non lo sapeva era addestrata e istruita, come si addestra un agnellino, di stare attento dalla persona. Ma è una sorta di accettazione collettiva silente. Lei ha avuto questa impressione? È una sorta di processo di rimozione collettiva per cui si fa i conti con una cosa che è sempre stata così e che quindi ce la teniamo così. Ma tutto sommato questo è come quando si parla anche delle violenze, diciamo, all'interno della famiglia sulle donne, no? Da parte del partner, del marito, il marito violento. Cioè, perché attorno a questa cosa non c'è una situazione analoga? Sì, sì, poi se è un po' nervoso, certo. Bisogna che sia paziente, devi capirlo. Bisogna che sia paziente, devi capirlo, e poi intanto la spirale continua fino ad arrivare alle nostre indagini che ci dicono che il 20% delle donne che hanno subito violenza dal partner hanno avuto paura per la vita, che vuol dire che sono a rischio altissimo sulla loro vita, e poi il numero di femminicidi che sappiamo quanto è elevato e che addirittura è un qualcosa che, nonostante gli omicidi nel nostro paese sono diminuiti, ma di tantissimo... È in continua crescita, però voglio tenermi ancora sul problema. Gabriella, sentiamo Gabriella. Buongiorno Nicoletti. Sì. Dunque, volevo raccontare un episodio che mi è accaduto, che dà un po' indicazioni di quella che è la spudoratezza dei responsabili. Dunque, noi eravamo, io e mio marito eravamo in una struttura sanitaria, e questa struttura sanitaria viene pulita da una cooperativa. Quindi c'era una ragazza che stava facendo la pulizia in questi corridoi quando è stata avvicinata dal suo responsabile, e questo responsabile, in maniera veramente spudorata, le ha fatto un tipo di approccio molto esplicito, cioè se tu sei carina, davanti a persone, quindi noi non è che stessimo origliando, eravamo nel corridoio in attesa di questa visita. Intanto saluto un attimo la dottoressa Linda Laura Sabadini che ci deve lasciare, la ringraziamo per averci dato in tanti voi, dati. Tra l'altro vado a un convegno, devo parlare proprio a un convegno su O figlio o lavoro, che riguarda le donne, quindi molto in tema, come si dice. D'altronde grazie. Questo è il suo lavoro, grazie. Continuiamo con Gabriella. Gabriella, assistito? E quindi questa ragazza era molto in imbarazzo, non sapeva che cosa rispondere. Sicuramente questo signore non l'avrebbe più fatta lavorare in questa cooperativa se lei non avesse accettato. Mi sembra strano poi questa cosa venga fatta coram populo davanti a voi che aspettavate. Sì, esatto, certo non era urlata, ma comunque era fatta a un tono di voce noi lontani e potevamo ascoltare. La cosa bella, il risvolto che può essere bello, perché veramente il diavolo fa le pentole ma non il coperchio, mio marito è il responsabile di questa struttura. E quindi? Per cui ha individuato la persona e ha segnalato che questa persona ha avuto questo comportamento, dire scorretto poco, ma è stato un caso. Certo, devo dire che al capo pulisci i gabinetti gli era scattato l'embolo proprio in maniera irresistibile, perché di tanto tempo che aveva per fare il suo odioso ricatto l'ha fatto proprio davanti al suo responsabile, quindi evidentemente quella volta è stato un momento fortunato per la causa che stiamo trattando questa mattina. Viviana. Buongiorno. Io volevo sottolineare che, a parte sul lavoro, che anche a me naturalmente è capitato, dico naturalmente perché mi sembra addirittura che sia obbligato che debba capitare. Però ce lo spieghi, questo è l'argomento del giorno. Sì, certo. Però volevo sottolineare, a parte sul lavoro, ripeto, no? Ma lei ha subito molestie sul lavoro? A piene mani. Poi oltre a questo... Ma non erano confondibili con atti di galanteria, no, complimenti? Assolutamente. Faccio un esempio concreto però. Assolutamente, un esempio concreto semplicissimo. Allora, lavoravo, facevo prima, perché chiaramente anch'io come precaria faccio un lavoro, poi ne faccio un altro, poi ne faccio un altro. In quel momento, parlo di un paio di anni fa, ho 27 anni, ora dovevo andare da un, perché lavoravo per un ufficio molto grande a Roma di commercialista, e dovevo andare a uno ispettorato del lavoro. Mi disse la proprietaria di questo grande ufficio, mi disse: guarda, cerca di distrarlo, senta questa che carina, cerca di distrarlo perché sicuramente potrebbe trovare qualcosa che non va. Io non ci pensai affatto, solo come entrai da questo ispettore, io capii subito dallo sguardo che aveva intenzioni non piacevoli. Chiuse la porta, non trattò per niente l'argomento del lavoro, di tutti i registri che io avevo portato e che io dovevo consultare, e direttamente, immediatamente mi disse: ma lei le piace il lavoro che fa? Dico no. E che vorrebbe fare? Dico, dico chiaramente io ho studiato per altre cose, io potrei fare molto per lei, mi disse, no? Ho capito chiaramente la situazione, no? Ho detto sì, ma in che senso? Dice, lei aiuta me, io aiuto lei. E in quel momento io mi sono sentita... E l'aiuto era riferito al suo amico più stretto, al suo fratello gemello, naturalmente. Senta quest'altra, che potrebbe essere divertente, ma se non fosse capitata a me. Vado a fare una radiologia, e quindi entro... Ma in quel momento, no, vi dico come va a finire questa storia? Come finisce la storia col delegato chiuso nell'ufficio? Ma la parte più interessante, l'ho omessa. Posso fare molto per lei poi? Poi. Aiuti allora, me e poi? Lei aiuti me, io aiuto lei. Allora io ho detto no, in quel momento chiaramente non si è permesso di mettermi le mani addosso. Mi fa, mi dia il suo numero di telefono, ne parliamo meglio chiaramente. Non si è occupato dei registri, non mi ha chiesto nulla, zero. Vabbè, io lascio il mio numero di telefono perché dico, voglio vedere questo dove arriva. Mi chiama la stessa sera e mi fa... Sei andata un po' a cercare perché mi sembra talmente esplicito. No, non me la sono andata a cercare. Sì, perché me la sono cercata. No, io volevo vedere questi uomini, dico, dove arrivano, no? E come arrivano? Sì, dove è chiaro arriva? Che era esplicito, però volevo vedere. Allora mi chiama e mi fa, chiaramente ci vediamo, parliamo a casa mia. Ah, lo porta a casa sua? No, mi fa, ci vediamo per parlarne a casa mia. La invita a casa sua. Ecco, io gli ho detto tante grazie, ne faccio a meno. È finito così. Però, senta che divertente invece, al di là del lavoro, voglio dire, gli uomini proprio, non lo so che diavolo sia, però sembra che è una pulsione che vada al di là della ragione, al di là di qualunque ceto siano. Senta questa che la reputo divertente, ripeto, se non fosse capitata a me. Il miglior amico di famiglia del mio convivente. Ma è una cosa sul mondo di lavoro? No. Allora non ci interessa. È violenza però. Eh sì, però è un altro argomento. Mi dispiace, già parte con la premessa, è molto divertente, quindi non mi pare che il suo trauma sia così incolmabile. Parliamo dell'argomento di oggi. Grazie comunque della prima parte che è stata interessante. Chiara. Buongiorno. Sì. Eccomi qui. Sì, io volevo raccontare una cosa che mi è accaduta un bel po' di tempo fa. Io adesso ho 39 anni, all'epoca ero appena laureata, stavo facendo un master e mi sono trovata a fare lo stage in un ente pubblico e mi hanno messo la scrivania nel grande ufficio di questo dirigente. Io all'epoca ero molto timida, così, e lui, diciamo, tutti i giorni, con una sorta di stillicidio, continuava a dirmi che stavo sbagliando tutto nella vita, che non dovevo essere così, che dovevo cambiare, eccetera, eccetera. Faceva il paterno, insomma. Esatto, dovevo diventare più disponibile, più aperta, eccetera, eccetera. Soprattutto quindi, aperta, immagino. Esatto, e ci provava pesantemente. La cosa abbastanza sgradevole era che lui spesso riceveva delle professioniste, delle architette, delle ingegnere, eccetera, per il suo lavoro, e provava provava pesantemente con queste ragazze, con queste donne davanti a me, perché io comunque avevo la scrivania in quell'ufficio, e spesso, come dire, trovava anche riscontri. Poi quando queste se ne lei vedeva dalla sua scrivania anche l'esito del provoloneggiare. Sì, vabbè, magari non cose mostruose, però insomma abbastanza sgradevoli. Tipo? Ma non so, sì, baciava queste qua, le faceva sdraiare sulla scrivania. Vabbè, cose così. Cioè, sembra un film di Alvaro Vitali. Cioè, che... No, vabbè, ma senza magari eccessi. Cioè, nell'open space del suo ufficio pubblico, queste si sdraiavano sulla scrivania. Sì, poi con me, tra l'altro, appunto lì a latere. Poi quando queste uscivano, lui mi diceva: vedi, queste sì che faranno carriera, tu non capisci niente, di qua e di là. E questa cosa che magari adesso mi sembra, vabbè, mi fa ancora incavolare, ma anche un po' divertire, comunque per me era stata molto pesante. Io l'ho vissuta proprio male. E infatti, per fortuna, poi paradossalmente, un politico, un assessore che io nemmeno conoscevo, forse mi ha visto che ero un po' triste, ero un po'... E si è occupato di lei? No, semplicemente mi ha aiutato a cambiare posto, sono andata poi a lavorare, a finire lo stage in un altro... Senza chiederle in cambio, l'orrendo... Senza chiedermi niente, appunto, paradossalmente... Senza intima d'azione, è riuscita a cambiare posto e salvata. Grazie. Cinzia. Senta, io ero giovane, avevo 30 anni, adesso anche un po' meno, ne ho 50, comunque la stessa cosa sul posto di lavoro, il padrone mi fa... il padrone, è un termine antiquato. Il padrone della fabbrica dove lavoravo, mi chiama su, mi fa: quando più ho tempo libero, se finisco prima, se le vado a fare compagnia, che mi troverei qualcosa in più in busta. Io gli ho detto: grazie, ma se sono così brava, mi faccio trovare stessi questi soldi senza venire su. No, ma sai, mi faresti compagnia? Io mi sono rifiutata. Il giorno dopo si è avvicinato a me e ha detto: se tu oggi non fai più lavoro di ieri, da domani rimani a casa. Le ragazze si sono alzate, ne aveva licenziato una la settimana prima perché non c'era stata, e hanno detto: se da domani la Cinzia rimane a casa, rimaniamo a casa anche tutte noi. Quindi c'è stata una cosa bellissima da una film. Cosa stupenda. Dopo 2 anni ci ha licenziato tutte, però. Evidentemente aveva scelto male le sue accompagnatrici nei momenti di solitudine. Valerio. Buongiorno. Io sono d'accordissimo sul condannare naturalmente qualsiasi ricatto e violenza, però vorrei appunto si dicesse che è sbagliato comunque, anche quando entrambe le parti sono acconsenzienti. Certo, è fastidiosissimo. C'è sempre qualcuno che ci rimette. Assolutamente. Nel senso che, ho sentito all'inizio che ha detto anche questa cosa, prima l'ho sentito, appunto volevo... No, ho detto, io laicamente non voglio toccare questo problema, non ne faccio un problema di ordine etico e morale. È chiaro che vedersi passare avanti una persona perché ha usato con sapienza le proprie attrattive sessuali, se esso uomo o donna, è molto fastidioso e sgradevolissimo, non dovrebbe accadere. Ma io voglio fare un passo avanti e parlare di quelle che sono costrette a farlo. Mi sembra che hanno priorità. Comunque il sesso con il lavoro è comunque sbagliato, diciamo così, molto più grave quando è un ricatto o una molestia, ma comunque è sbagliato anche quando si è consenzienti. Vabbè, questo ha ribadito un concetto, mi sembrava già abbastanza chiarito. Maria. Buongiorno. Io volevo fare una, diciamo, un'osservazione, per quanto sono una professionista, mi capita spessissimo di andare in uffici pubblici. Io non riesco a capire come le donne adesso, giovani e belle che ci sono negli uffici pubblici, debbano provocare praticamente una reazione da parte dei colleghi con un abbigliamento decisamente spinto. Io sono contraria a qualsiasi violenza sia mentale che effettiva. Quindi lei dice sono le donne che provocano gli uomini vestendosi in maniera scollacciata, esattamente la cosa che ho detto sarebbe stato meglio non sfiorare questa mattina, perché a me fa molto piacere vedere donne ben vestite, anche in atteggiamenti scollacciati, ma questo non mi fa venire in mente di saltargli addosso, di proporre a loro orrendi mercimoni. A lunedì.